English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Questa sera dobbiamo presentarvi un nuovo amico di English 24. È un personaggio straordinario che ci hanno consigliato, insomma ci è arrivata una segnalazione via mail. È un jazzista, ma anche un conduttore radiofonico americano. È stato in Italia per qualche giorno, è venuto a trovarci a Radio 24 e quindi ne abbiamo approfittato per fargli un'intervista e lo sentiremo anche a breve in 140 caratteri per ascoltare anche la sua musica. Ma intanto sentiamo lui cosa ci ha raccontato. Si chiama Ken Field, musicista e DJ. Intanto gli abbiamo chiesto di raccontarci che tipo di musica fa. Ascoltiamolo. I play many different kinds of music. I play saxophone and I play flute and I play a little bit of percussion. The styles of music I play are very diverse. I play with a very experimental instrumental ensemble called Bird Songs of the Mesozoic, and this is a group with two keyboards, guitar and saxophone, and the music is mostly composed. I also have my own group. It's called the Revolutionary Snake Ensemble, and it's a group that is very different. It's mostly improvisational, not composed. It is a group that is very influenced by New Orleans brass band, Mardi Gras music, but also I bring in influences of funk and influences of modern experimental jazz. I also play more traditional jazz in back at my home in Boston, and I like to work with layers of my own alto saxophone. Ecco qui la presentazione di Ken Field fatta da Ken medesimo. Fa tanti tipi di musica, ha anche svariati gruppi dai nomi molto buffi e molto interessanti. Cosa suona Ken Field? Quindi I play many different kinds of music, quindi faccio musica di molti tipi diversi e soprattutto è un signor strumentista, perché sa suonare il saxophone, flute, che non è esattamente come il saxophone anche se comunque in qualche modo è uno strumento a fiato, e poi anche a little bit of percussion, un po' di percussioni. E con vari stili di musica. Sì, e deve essere veramente, mi spiace non essere stata qua perché probabilmente traspariva insomma la complessità del personaggio, perché da una parte fa parte di questo ensemble, cioè di questo gruppo, è già qui carino che non usa la parola gruppo ma ensemble, quindi proprio che poi in francese vuol dire insieme, ma che vuol dire proprio l'idea di persone che suonano insieme ma probabilmente che hanno anche un'intesa particolare, e questi si chiamano gli uccelli canterini del Mesozoico, che è una delle ere geologiche, quindi. E questi signori hanno two keyboards, a guitar and a saxophone, quindi abbastanza tradizionali. Infatti the music is mostly composed, cioè seguono uno spartito, è musica che viene prima composta o da loro, magari da qualcun altro, e poi eseguita. Ma ha anche il suo proprio gruppo, My Own Group. E qui sono i Revolutionary Snakes, sono i serpenti rivoluzionari, e qui invece è mostly improvisational, cioè improvvisata, not composed. Quindi qui è quella cosa che a me affascina tantissimo, cioè sentire delle persone che si mettono lì, si guardano i loro strumenti e cominciano a suonare. E come mai non strimpellano, come mai non stonano, è un mistero. C'è anche da dire che seguono alcuni tipi di generi, no, di ispirazione, certo. Lui ce li spiega. Quindi New Orleans, sappiamo la capitale del jazz americano, e poi il funk, poi quello che lui chiama modern experimental jazz, quindi appunto di tipo soprattutto improvvisato, e poi però anche un po' di traditional jazz, ed è che poi quello che back at my home, quindi lui è, home for him is Boston, è di Boston, abita a Boston, la sua casa è a Boston. E lì poi lui ha anche, visto che appunto ci ha detto che il primo strumento che ci ha citato è il saxophone, quindi gli piace poi sperimentare con diversi tipi di saxophones, diversi livelli di saxophones. E infatti ha anche questi CD solisti che sono molto particolari, perché suona solo lui ma ci sono varie linee di sassofono, quindi uno stile molto particolare, quello di Ken Field, che dicevamo è anche un DJ. I focus my career as a musician, as a composer, as a performer, but I have a wonderful opportunity to also present other people's music to the public on my radio show, which I've been doing now for probably 7 years, 8 years. It's on a station in Cambridge, Massachusetts, right near Boston, that is owned by MIT, the university. And I do a program once a week called The New Edge. It's a program that presents modern but not always modern, instrumental music, creative music, creative instrumental music from a variety of styles. Modern classical music, modern improvised music, sometimes music from other parts of the world, electronica, ambient music, many different styles. The only important criteria is that I like it. E una delle bellezze della rete. La scorsa settimana abbiamo parlato di Twitter nell'informazione, questa settimana invece possiamo parlare di rete e musica, è che noi in rete possiamo trovare trasmissioni radiofoniche che arrivano da tutto il mondo. Infatti, cercando molto semplicemente su Google Ken Field e la sua trasmissione che si chiama New Edge, si trovano proprio le puntate e quindi si può ascoltare un po' della musica che propone il nostro Ken. Che lui ci dice, chiaro che I focus my career, cioè la mia career, che poi attenzione al termine career perché noi lo usiamo quasi sempre come carriera nel senso di uno che ha veramente fatto un percorso e in americano è spesso semplicemente il mio lavoro, quindi il mio lavoro è fare il musicista, il compositore e il performer e suonare dal vivo, però I have this wonderful opportunity, però ho anche questa grande opportunità di present other people's music to the public on my radio show. E qui la solita espressione che sottolineiamo sempre, si cambia forma verbale per far capire che è una cosa che dura da tanto tempo. I have been doing it now for 7 years. In italiano dobbiamo dire sono 7 anni che lo faccio, che ho questo programma. È un programma in una radio molto particolare perché appartiene a un'istituzione un po' particolare, molto famosa. Che è il Massachusetts Institute of Technology, il famoso MIT. È carino sapere che insomma si dedicano anche alla musica, che investono anche in una radio di musica. Chissà se il Politecnico lo fa, per esempio, di Milano. E poi vi sottolineo, perché questa è un'altra piccola ossessione americana, siccome sapete che la Cambridge più famosa, forse non più, però la Cambridge originaria era quella in Inghilterra, allora tutte le volte che gli americani dicono Cambridge, dicono Cambridge, Massachusetts, e non lo fanno per tantissimi altri posti che pure hanno ciascuno il loro stato. Quindi mi raccomando, Cambridge, Massachusetts, near Boston, dove c'è l'MIT. Ce l'ha il Politecnico, la Poliradio, quindi consigliamo anche ai ragazzi del Politecnico di ascoltare i loro omologhi di Cambridge, Massachusetts. Il suo programma si chiama A New Edge e cosa propone? Qui quindi instrumental music, quindi non aspettatevi appunto canzoni, perché o comunque dove c'è anche una parte di voce, perché è tutta musica strumentale, però from a variety of styles, perché abbiamo capito che a lui piace molto attingere, ascoltare, farsi stimolare e consigliare musica di ogni genere. Quindi modern classical, improvised, music from other parts of the world, electronica, ambient addirittura, quella degli ascensori, many different styles. C'è only un solo criterio. Ed è bellissimo, perché questa è una grande libertà. The only important criteria is that I like it. Quindi lui ha totale libertà, giustamente. Il suo spazio lo dichiara probabilmente all'inizio. Guardate che quello che vi mando è quello che mi piace. Poi spero che piaccia anche a voi. C'è una cosa che mi incuriosisce sempre ultimamente quando incontro degli americani, è chiedere loro come vedono l'Europa. Perché noi siamo immersi in questa crisi. Gli americani ci guardano con una certa curiosità e anche una certa apprensione. E allora io ho chiesto a Ken, ma Ken, ora che sei arrivato in Europa, perché è stato anche in Francia, come vedi l'Europa, come ci vedi qui noi europei in crisi? La sua risposta è stata veramente carina. I think it's very much the same as it is here. Economically, it's a difficult time. Some of us think that what our president, President Obama, is doing is the right thing. But other people, it's a very divided country, and other people think exactly the opposite. I never made much money playing music. So for me, it's not much different. I still don't make much money playing music. But I am lucky that I've had so many opportunities to compose music and have and perform music and have it heard by enough people to make me very, very happy, and I'm very glad about that. Allora lui lo dice subito, sì, effettivamente la situazione negli Stati Uniti non è molto diversa, è più o meno stiamo vivendo tempi difficili tutti. Sì, ed è più ragionevole di Obama, che poi è chiaro che lui è un sostenitore di Obama, ma perché insomma Obama recentemente ha dato all'Unione Europea la colpa di tutto, insomma, per quanto io amo Obama, insomma non è proprio così, Mr. Obama, ricordati di Lehman Brothers nel 2008, ma comunque. E lui dice quindi, economically it's a difficult time, è un momento difficile, da noi come da voi, quindi questa è una cosa che percepiamo tutti. Poi è chiaro che magari le reazioni anche psicologiche sono diverse, però reality check, come dicono gli americani, it's a difficult time. In America, un po' come succede da noi, l'opinione pubblica è divisa, c'è chi pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro, però lui dice, in realtà a me non cambia moltissimo. E lui dice, ok, partiamo appunto, perché la domanda di Marta era economica, no? come vedete l'Europa, e lui dice, well, I never made much money playing music, letteralmente non ho mai fatto molti soldi suonando, cioè non mi sono mai arricchito suonando, well, for me it's not much different, quindi non è che adesso sia cambiato molto, I still don't make much money playing music, quindi è chiaro che è un signore che ha tantissima esperienza, però ha scelto di fare le cose che gli piacciono, e spesso questo non coincidono in generale con le cose commerciali, però c'è il piacere di fare musica, e quello non gliel'ha mai tolto nessuno, e quindi si sente addirittura, come molte persone che vengono pagate per fare qualcosa che a loro piace veramente, I am lucky that I've had so many opportunities. La cosa che lo fa sentire fortunato è che insomma lui si sente felice sostanzialmente quando suona. Sì, perché poi probabilmente c'è il piacere di suonare, quindi to play, ma anche il piacere di avere un audience che poi ai tempi di internet probabilmente è molto, molto, c'è molto feedback, anche grazie alla radio, quindi lui interagisce, perciò dice I'm lucky that I've had so many opportunities to have my music heard, che letteralmente vuol dire perché la mia musica fosse sentita e magari anche ascoltata, have it heard by enough people, per persone a sufficienza, cioè quelle che io considero comunque un buon numero di persone, e quindi to make me very happy, ed è una cosa che mi ha, insomma, che mi ha reso felice, che mi ha reso sempre felice, quindi money è il fattore economico, evidentemente, insomma, c'è la sussistenza, quella sì, bisogna sopravvivere, ma non l'arricchimento. La poesia del vero musicista. Allora, vi tutteremo qualcosa dai nostri account di Ken Field, perché vale proprio la pena conoscerlo, ma in realtà è molto semplice trovare la sua musica e anche i suoi programmi radiofonici in rete. Per il nostro sabato radiofonico il nostro tempo si è concluso qui. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.